Sing to the Lord a new song. Sing, sing, sing, sing, sing to the Lord. Sing, sing, sing, sing, sing. Praise his name, praise his name, praise his name. Kandayana. Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lui Gustia, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Iaunari, Hala tu Harenaya, Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lui Gustia, Canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, ansiate diem de die, salutare, salutare, salutare, salutare. Canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari. Exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, exultate, domino. Canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari.